la mia paura è che adesso quando uno sviene tutti si buttino su questa povera persona per fargli massaggio cardiaco, perché purtroppo la televisione ci ha insegnato che tutto questo sembra essere estremamente facile da fare, e invece forse le prime cose importanti sono quelle da non fare. Quando una persona sviene, se noi non la conosciamo, quindi non è una persona della quale ci occupiamo e quindi conosciamo quali sono i suoi problemi, se noi non la conosciamo la prima cosa che dobbiamo fare è assolutamente non muoverla. La seconda cosa che non dobbiamo fare è non toglierle l'aria, ed è esattamente quello che lei ha fatto in quella situazione, quindi stare lontani. Ma è vero, perché assolutamente, perché le togliamo l'ossigeno e togliamo l'aria. Slacciare, questo lo dobbiamo fare invece, slacciare eventuali parti, soprattutto nella parte alta del torace, bottoni, camicette strette, collo, per poter poterla lasciare respirare. E forse l'unica cosa che possiamo fare, se non è una persona che è caduta perché ha avuto un trauma, quindi l'abbiamo vista volare sul pavimento del supermercato, sollevare gli arti inferiori per favorire il ritorno del sangue al cuore e quindi aiutare il cuore a recuperare quella parte di sangue che è indispensabile che lui rimandi in giro immediatamente, soprattutto al cervello, che è quello che si spegne momentaneamente quando la persona perde coscienza. Si somministrano liquidi, va bene lo zucchero, bene, il cicchetto forte come suggerivano alcune persone, andiamo a prendere qualche cosa di forte. No, allora, se conosciamo la persona, potrebbe essere una persona per esempio diabetica che è andata in carenza di zuccheri, in questo caso è lo zuccherino che la può aiutare, ma dare a una persona svenuta che quindi non è in grado di controllare la deglutizione qualcosa da bere è estremamente pericoloso, perché vuol dire rischiare di far percorrere al liquido il percorso sbagliato che potrebbe finire nei bronchi e quindi provocare un disastro. È meglio non farlo, è meglio se la si vede accaldata bagnarle la cute con dell'acqua, bagnarle le labbra, ma non farla bere. No, non possiamo dare questo suggerimento perché è troppo pericoloso.